Buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Might FM. Chi vi parla dagli studi di Radio Città Fujiko, in teoria, ma in realtà stiamo registrando Radio Kairos, perché per motivi, diciamo, di lavoro questa sera non possiamo fare la diretta, ma sono le 2:15 di venerdì 7 dicembre e stiamo registrando questa puntata che, per chi ha visto il nostro evento su Facebook, è dedicata ad una realtà prettamente italiana, ma con un afflato, ci piace dire, assolutamente internazionale, che prende la sua ispirazione, le sue origini dal più tradizionale alt rock, indie rock, college rock degli anni 90, di matrice statunitense, ma che appunto si è saputo evolvere in un progetto molto molto più originale ed interessante, dietro al quale c'è una personcina molto giovane e molto dotata, super talentuosa, che si chiama Adele Nigro, nata a Verona, ora di base prima per studio, ma adesso insomma ha una carriera bella avviata come musicista a Milano. L'album di cui parliamo è uscito il 14 settembre per la 42 Records del nostro amico Colas. E partiamo con il brano di apertura, come sempre si chiama A Grade. In the vacuum of the ideas, I can see your figure in the backstage of my daily actions, putting off my education. Paranoia, kilometer. I don't care about it, only if my solitude's protected. But reappearing, you destroy me. Cannot stand here, knowing something. Shower has a water loss, remind me that I should fix it. I should stop wasting my time. I recall that one time I bought a Michael Jackson pin and gave you, cause it was a present, but you lost it. And we're gonna always be still. My fingers glued to make you happy. Now it's dropped into the dust. Has anything I've ever done ever been important to you? Has anything I've ever done ever had? I've cried to farewell transmission. I've cried to farewell transmission. I've cried to farewell transmission. I've cried to farewell. Thank you. E stiamo ascoltando A Great, il pezzo di apertura di To Geography. Non abbiamo neanche fatto in tempo a dire il titolo, secondo album a nome Any Other. E quando c'è questa esplosione di questo pezzo è un po' Alanis Morissette, quindi torniamo sempre agli anni 90, ma è anche un po' Julia Holter. E io ho pensato, ma come mai nelle varie interviste o recensioni non viene mai nominata? E invece in un articolo di Dance Like Shaquille O'Neal trovo che nella sua playlist del momento in cui ha fatto quell'intervista, nei suoi 5 pezzi che ascoltava di più, c'era l'ultimo singolo dell'ultimo album della nostra amata Julia Holter, che adesso quindi ascolteremo, I Shall Love Too. Julia Holter, I Shall Love Too, perché poi c'è anche una numero 1. Il suo ultimo lavoro, uscito il 26 ottobre di quest'anno, e questo pezzo come primo singolo invece all'inizio di settembre, un album doppio, Aviary, e probabilmente questo pezzo noi l'abbiamo ascoltato poco più di un anno fa, un anno e 5 giorni fa, quando Julia suonò al Locomotive. Julia Holter è un'artista che chi conosce Mete FM sa che l'amiamo molto, infatti 3 anni fa, in corrispondenza dell'uscita del suo album precedente, noi dedicammo appunto la prima puntata della stagione del 2015-2016 appunto alla sua carriera e al suo bellissimo Have You in My Wilderness. E appunto al momento dell'intervista di Dance Like Shaquille O'Neal ad Adele Nigro, ovvero Any Other, perché immagino, adesso non riesco a vedere la data, immagino, non sopporto quando non mettono la data, forse c'è, insomma probabilmente sarà stato insomma a cavallo dell'uscita dell'album il 14 settembre. In quel momento sui ascolti preferiti c'era Mitski, Two Slow Dancers, poi c'era Brian Eno, Julia Holter, John Coltrane e Io la tengo. È molto carina questa, e la citerò spesso adesso in questa trasmissione dedicata a To Geography di Annie Oder, questa intervista ad Helen Nigro, perché è un'intervista alla Z, quindi ogni lettera dell'alfabeto ispira qualcosa, in questo caso questa lista di canzoni in heavy rotation per lei in quel periodo figurava sotto la J di Jukebox. E invece dopo c'è, dopo la K, che adesso non diciamo, c'è la L di Love Cats. I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that this time I have said too much, been too unkind. So I told you laugh about it, covering all up with lies. I told you laugh about it, hiding the tears in my eyes, 'cause boys don't cry. Boys don't cry. E ovviamente non ho detto Love Cats in quanto titolo di un pezzo dei Cure, ma in quanto primo progetto musicale di Adele insieme alla sua migliore amica Cecilia Grandi, è iniziato nel 2010 quando immagino entrambi avevano 16 anni. E quindi Adele e Cecilia, classe 94, iniziano a suonare insieme col nome The Love Cats, e infatti nel 2011 appare in rete questa cover di Boys Don't Cry dei Cure, da dove hanno preso il nome. Leggendo la loro bio su Rocket si legge: duo felino, se ascolti le Love Cats vieni trasportato in un mondo dalle tinte pastello e dai tratti sognanti, dove tra gatti e dinosauri Cecilia e Adele, accompagnate da una chitarra, cantano dolcemente le loro melodie folk pop. E quindi le influenze dichiarate erano appunto quelle dei Cure, anche di Bob Dylan. E poi nel 2011 producono un primo demo, poi nel 2013 il primo ed unico EP Almost Undone per la Di Notte Records, da cui appunto stiamo ascoltando uno dei pezzi che si chiama Feb 13th, ovvero 13 febbraio. E in questo cantato io ci sento anche un po' di Smith's, Smith's primo disco, il verso precedente. E la descrizione invece dell'EP dice: quattro brani riflessivi e spensierati che ci penserei su questa cosa, fa riflettere, che trasportano subito in una dimensione dai tratti pastello, ancora il delicato intrecciarsi di strumenti e voci come un libro di fiabe, come il burro con la marmellata. La Quindi questo è stato il primo progetto musicale, appunto nato nel 2010, quando Adele aveva solo 16 anni, ma noi stiamo parlando del secondo album, una grande conferma, uscito appunto a settembre, To Geography. Prima abbiamo sentito il pezzo di apertura A Grade, di cui lei dice: ho sempre vissuto questo pezzo come la porta di accesso a questa seconda fase del mio percorso musicale e quindi anche come un ponte comunicativo tra quello che ho fatto nel primo disco e quello che spero di riuscire a far passare con questo qui. È uno dei primissimi pezzi che ho scritto, credo di averlo cominciato a scrivere ancora prima che uscisse il primo disco. Ricordiamo, il primo disco è del 2015, ne parleremo e lo ascolteremo, Silently, Quietly, Going Away. E poi appunto il pezzo A Grade è stato tagliuzzato, editato, trasformato, e come tematiche volevo che fosse un po' uno statement su una fase di cambiamento, mentre adesso siamo al secondo pezzo di To Geography, nonché il primo singolo, il primo video che è stato diffuso qualche mese prima, credo a giugno, dell'uscita dell'album, e si chiama Walk Through. Presenza del sax, suo strumento, tra gli strumenti che lei suona, il sax tenore credo, e la presenza del filicorno, che questo la accomuna di nuovo a Julia Holter. Anche questo pezzo me la ricorda molto. Come spesso succede, i pezzi di Any Other di Adele parlano di relazioni passate e finite, relazioni malate, relazioni andate a male, e del desiderio di non stare più male, insomma, di non ripercorrere sempre sentieri, insomma, sbagliati, malsani, non ripetere gli stessi errori. Questo pezzo dice: ti ho chiesto di scoparmi in più forte possibile, ma tanto non avrei sentito niente. Ti ho chiesto di colpirmi il più forte possibile, non avrei sentito niente, di rompermi, di spezzarmi. Infatti lei dice, per quanto riguarda il testo, descrive un cambio di prospettiva che ho avuto nel corso di questa relazione non molto sana, una relazione in cui mi mettevo completamente a disposizione di questa persona, e quindi in tutta la prima parte ripeto: fammi male, fammi le peggio cose, tanto non le sento. Sono così innamorata e accecata in un modo appunto malsano, che puoi farmi talmente, puoi farmi qualsiasi cosa, puoi farmi tanto male, perché tanto per me non fa nessuna differenza. E che è un grande contrasto invece con questa musica così ariosa, aperta. E poi mi pare di aver letto, forse lo leggeremo in seguito, che questo ultimo verso che viene ripetuto, se non mi vedono non sono niente, ma se mi notano davvero non sono niente, penso che sia tutto riferito all'ansia da social media. I'm not afraid to die. abbiamo detto che Two Geography di quest'anno è il secondo album, perché il debutto come Any Other accade nel 2015, Silently, Quietly, Going Away, e adesso questo è il primo pezzo di apertura di quel disco, si chiama Something. In a state of agitation with the anger at a clock. At a clock. Si può sentire appunto qual è l'impronta del college rock, dell'indie rock americano anni 90, e infatti le sue ispirazioni dichiarate, le sue passioni dichiarate appunto collimano con quel posto, quel luogo, quel momento storico a livello musicale. Ma appunto il progetto delle Love Cats si scioglie perché Cecilia vuole dedicarsi agli studi, io immagino l'illustrazione, visto che è molto attiva appunto come illustratrice e anche come fondatrice del Tutte Collective, che è appunto è un gruppo di illustratrici italiane sparse per il mondo, che lei ha fondato nel 2017 e che comprende appunto più di 40 illustratrici, graphic designers e artiste, e hanno prodotto due volumi, e poi anche Cecilia crea anche illustrazioni e GIF per i social di Francesca Michelin, Fondazione Prada, illustrazioni per Marie Claire, eccetera. Ma perché dedico tanto spazio a Cecilia? Perché è la sua migliore amica, perché appunto in questa intervista dalla A alla Z sotto D è stato detto D come donna, di una donna che ammiri e stimi, e lei ci ha tenuto appunto a dire Cecilia è la mia migliore amica, e anche a fare insomma pubblicità al suo Instagram, che si chiama Tutto Tonno. Insomma, il progetto Love Cats si interrompe, ma Adele sa che vuole fare musica, e avendo già molti pezzi scritti tra gli anni del liceo e il trasferimento a Milano per l'università, decide, e sembra anche un po' contro tutti, sembra, insomma, non godeva di molta fiducia da parte degli altri, di creare Any Other con l'aiuto di una sua amica sempre del liceo, Erika Lonardi, che insieme fanno anche una lista di parole inglesi che tra cui scegliere, giudicando sia per come sono scritte, quindi proprio l'aspetto estetico della parola scritta, che del suono delle parole inglesi, da cui scegliere, tra cui scegliere per scegliere il nome di questo nuovo progetto, e così nasce Any Other. Ma parlavamo delle influenze assolutamente dichiarate dal punto di vista musicale per Adele. Sono i Built to Spill. gruppo di Boise nell'Idaho con 8 album all'attivo dal 92. E stiamo ascoltando questo pezzo tratto dall'ultimo album del 2015, Untethered Moon, e abbiamo iniziato ad ascoltare l'album e ci siamo fermate a questo secondo pezzo della tracklist, Living Zoo, perché tutto avete sentito da questo svisate di chitarra, mi ricordava moltissimo Just Like Heaven, The Cure, quindi mi sembrava che magari insomma potesse essere anche un pezzo apprezzato dalla stessa Adele. Poi a posteriori ho visto che infatti era il singolo promo insomma di questo ultimo album, Built to Spill, che hanno già annunciato 3 date in Italia, tra cui una, mi sembra 3 date in Italia, sicuramente una a fine maggio al Locomotive per celebrare i 20 anni dal loro album Keep It Like a Secret, che era il 4. E immagino che anche Adele se ne andrà a vedere Built to Spill. To Spill, che noi abbiamo passato solo una volta in trasmissione, era la trasmissione, una delle trasmissioni dedicate al Primavera Sound di Barcellona del 2010, l'unico a cui andammo prima di scegliere insomma Porto. E finisce così Living Zoo, Built to Spill. Ma noi torniamo a Any Other e ad altri pezzi del nuovo album To Geography, che non l'abbiamo detto ma l'abbiamo scritto nella nostra presentazione. Gli Any Other suonano domani sera 8 dicembre al Covo Club. E questo pezzo che sta iniziando così in sordina è un breve pezzo strumentale che si chiama Stay Hydrated, che infatti essendo breve lo abbiamo attaccato al pezzo successivo del disco, ovvero Breastbone. E di questo pezzo Adele dice: è semplicemente una cosa che mi ripeto spesso, ragazzi state idratati, bevete tanta acqua, e ha assolutamente ragione. E poi anche del pezzo successivo dice: era un pomeriggio, ero a casa di Marco, non l'abbiamo ancora detto, ma poi insieme a Erika Lonardi entra nel progetto Any Other Marco Giudici. Era a casa di Marco, stavamo lavorando a pre-produzioni, provine eccetera, e gli ho detto: apri sto progetto, mi è venuta in mente una cosa, in qualche ora ho scritto questo pezzo di getto, poi ho smesso ed ero completamente allucinata. Mi piace pensarlo come la prima parte di Breastbone. Ecco, noi l'abbiamo attaccato per motivi, diciamo, tecnici e pratici, non avevo visto che appunto lo considera come un intro del pezzo successivo, che aveva un intro molto più lungo di quello che è finito nel pezzo. Quando abbiamo dovuto registrare Stay Hydrated e Breastbone, le abbiamo registrate su un progetto unico e sono concepite insieme in un certo senso. Sono entrambi pezzi in sol maggiore, per quanto Breastbone non suoni come un pezzo in sol maggiore. Ecco che arriva appunto la musicista pura, che dà delle informazioni che noi non capiamo assolutamente niente. Comunque spiega: sono nella stessa tonalità, ci sono gli archi in entrambi i pezzi, però allo stesso tempo mi piace pensare a questo intermezzo strumentale come un pezzo di plastica. Mi sembra un pezzo molto finto, le chitarre sono in linea, ci sono sotto gli archi dei campioni di archi che avevo suonato, mentre Breastbone è un pezzo tutto acustico, quindi mi piace percepire questa differenza. So I dive into the nets and cozy websites, and I can shut my brain off and I think of you. Have I always been this miserable, or am I thanks to you? My breastbone hurts and I don't think that I can bear this. So I dive into the nets and cozy websites, and I can shut my brain off and I think of you. Have I always been this miserable, or am I thanks to you? My breastbone hurts and I don't think. So I dive into the nets and cozy websites, and I can shake my brain off. E anche qui si fa riferimento sempre a questa relazione malata che dice: e allora mi tuffo nelle reti e in siti, website comodi, così posso chiudere il mio cervello e non pensare a te. Sono sempre stata così miserabile o lo sono grazie a te? My breastbone hurts, penso al mio sterno, e non credo di poterlo sopportare. Sono queste le uniche frasi di questo pezzo, ripetute come un mantra catartico di liberazione. E ritornando alle influenze dichiarate, c'è l'immenso Elliott Smith, dal suo disco capolavoro del 97 Either/Or stiamo ascoltando Rose Parade. Un artista meraviglioso che ha deciso di arrendersi, suona male, perché appunto sembra che ci sia sempre uno stigma. Ha deciso di piantarsi un coltello in pancia a 34 anni. Rose Parade l'abbiamo troncata per attaccarci un altro pezzo. Sono tutti belli i pezzi di questo disco, e infatti sempre da questo disco sono i due pezzi che abbiamo già suonato precedentemente a Might FM, ovvero Angeles e Between the Bars, e questa è Cupid's Trick. Elliott Smith, che in realtà si chiamava Stephen Paul, nato nel 69 a Omaha, morto a Los Angeles nel 2003. Un cantautore che ha cantato sempre, insomma, di grande disperazione e che ha influenzato innumerevoli artisti. Iniziando con Ramon Candle nel 94, poi un album omonimo, poi il bellissimo Either Or, poi XO Figure 8 e poi un album postumo, From a Basement on the Hill. E finisce Cubist Trick di Elliott Smith e torniamo al primo album come Any Other, 2015, Silently, Quietly, Going Away. Questo pezzo si chiama Gladly Farewell. Del pezzo di prima Something che di questo Gladly Farewell sono stati fatti dei video, anzi questo è stato proprio il primo. Come dicevo, Adele sceglie il nome della sua band insieme a Erica, che poi suonerà la batteria in questa prima formazione. Una scelta di un nome anche a causa di un album molto amato da loro, ovvero Any Other City dei Life Without Buildings. E quindi la situazione è che Adele è a Milano e ancora senza casa, sta iniziando l'università. Quindi senza più un gruppo, senza casa, si fa ospitare da gente diversa praticamente ogni settimana e rincontra Marco Giudici. Si erano già conosciuti, lo rincontra, Marco sta a Milano, è di Milano e quindi lei gli chiede di ospitarla. Erano conosciute al Circolo degli Artisti, il defunto Circolo degli Artisti a Roma nel 2013. Adele propone a Marco, che suonava il basso nei Assyrians, di suonare il basso sui pezzi che aveva Adele, così per provarli, per sentire come suonavano, perché né Marco né Erika avevano l'intenzione di formare una band, ma solo di dare una mano a registrare le canzoni. Poi appunto facendo le prove esplode questo grande amore tra tutti e tre, e anche l'amore di Marco ed Erika nei confronti delle canzoni, e quindi così nasce la band. Infatti, come suggerito una giornalista in un'intervista, insomma è un po' come, insomma, due persone cominciano a frequentarsi, uscire insieme e insomma se la cosa va avanti a un certo punto dici beh vabbè, allora è ufficiale, stiamo insieme. Un disco, anche questo pezzo, che parla appunto della fine dell'adolescenza, dei grandi cambiamenti, della crescita. ma anche una cosa interessante, che questo primo album esce per la Bello Records, ovvero la prima etichetta posseduta da un gatto, ovvero l'etichetta di Gatto Bello, il primo gatto ad avere un'etichetta. Un disco che per Adele è anche una bella rivincita, un vaffanculo, diciamolo, anche usando le sue parole, nei confronti di chi diceva ad Adele che non sarebbe mai riuscita a fare un disco, che non sarebbe mai riuscita a farlo live, a farlo girare, invece lei non solo fa il disco ma si procura anche le date, o che non avrebbe mai capito niente di chitarre elettriche, perché il progetto precedente era folk, quindi gran chitarre acustiche. E invece lei di chitarre elettriche ne arriva a capire tanto, è ispirata anche dal modo di suonare la chitarra elettrica di Sadie Dupuis, ovvero voce chitarra di Speedy Ortiz. Infatti tra i video disponibili su YouTube di Any Other c'è anche una cover di un pezzo di Speedy Ortiz, ovvero Curling, contenuto in Sports EP, ovvero il primo EP prima del debutto con il primo album del 2013, Major Arcana, e noi suonammo per una trasmissione sul NOS di Porto, appunto Hitch, un pezzo tratto da quell'album. E poi dopo ce n'è stato un altro sempre nello stesso 2015, cui esordisce Any Other. E invece adesso il pezzo che stiamo ascoltando è dall'ultimo album di quest'anno, che si chiama 12 Verse, e questo pezzo è il pezzo che lo apre, si chiama Back Me Off. Speedy Ortiz, gruppo di Northampton, Massachusetts, che anche loro sono uno dei gruppi che hanno contribuito a questo, insomma, rinascimento del suono dell'indie rock, dell'alt rock statunitense, soprattutto appunto direi del nord-est degli Stati Uniti negli anni 90, band che nasce nel 2011. È formata da Sadie Dupuis, Mike Falcone, Darl Ferm, Andy Mollholt attualmente. Ma torniamo a To Geography, ovvero l'album ultimo che presenterà, che sta portando in tour Adele e la sua live band, dove c'è Marco Giudici ma altri musicisti, non c'è più Erika Lonardi, che tanta acqua è passata sotto i ponti in questi ultimi 3 anni. Questo pezzo si chiama Traveling Hard, viaggiare duro, viaggiare peso, perché è quello che ha fatto anche in questo tempo. Relationships expiration date. Adele dice: viaggiare tanto, troppo tempo lontano per qualcuno della mia età. L'ultima volta che ho pianto è stato stamattina in una camera d'hotel orrenda. E parla sempre comunque della... c'è sempre un you nelle sue canzoni. Parla sempre insomma di questa relazione andata male. Dice: ho pianto stamattina, volevo tornare a casa, assolutamente convinta che avevo bisogno di una casa con te. E ho scorso la mappa del mondo per contare le città in cui abbiamo fatto l'amore. E mi sono dimenticata di controllare la data di scadenza della relazione. E lei dice: è un pezzo che parla tra le altre cose anche dello stare in giro in tour, quindi di come questa esperienza ha a che fare con una persona pazza come me. Cioè, io giuro che lo sto leggendo in questo secondo, perché io in scaletta, sentendo appunto l'incedere della ritmica di questo pezzo, ho detto: mi ricorda Generic Animal, e infatti l'ho messo dopo in scaletta. E adesso vedo qui su Genius Lyrics che di questo pezzo lei dice: è venuta più di una persona a dirmi: sai che questo pezzo assomiglia molto ad un pezzo del disco di Generic Animal, quindi ti ha influenzato a lavorare con lui? Perché appunto l'abbiamo messo in scaletta per il fatto che disco di Generic Animal, Jacopo pare si chiami, che noi abbiamo ascoltato già in trasmissione perché l'abbiamo visto suonare al Today's Festival, è stato prodotto da Marco Giudici e Adele ha fatto i cori in diversi pezzi del disco, e quindi l'abbiamo messo in scaletta perché ovviamente c'entrava. Appunto, quando ho sentito l'inizio del pezzo, ho detto: ok, allora dopo Generic Animal ci sta benissimo. Ma lei dice: non mi ha influenzato per il pezzo che ricorda, ma quello che faccio con la chitarra, cioè il finger picking. E dice: è curioso perché comunque sono pezzi che ho scritto prima di lavorare con Luca. Ecco, non era assolutamente Jacopo, ma c'è un altro Jacopo che suona nel disco, ma Luca Galizia, che ai tempi l'abbiamo spiegato, abbiamo raccontato chi è, ovvero Generic Animal, che fa anche dei disegnini molto molto carini. E quindi eccolo un pezzo in cui Adele ha partecipato, dell'album omonimo di Generic Animal, che poi è molto prolifico, ha fatto poi prima e dopo tante altre cose già. E invece l'album omonimo da cui avevamo ascoltato due pezzi nella trasmissione dedicata al Today's Festival, sempre dello stesso disco, erano Hinterland e Tre Nord, e questo invece è Interludio. Ecco, e credo proprio che questa voce piano piano in sottofondo sia quella di Mischeta. Che Mischeta è ovunque. E quindi abbiamo scelto questo pezzo interludio perché c'è sia Mischeta che Adele Nigro che fanno i cori, insomma, partecipano. Perché devo dirlo, devo confessarlo, io la prima volta che ho sentito il nome di Adele Nigro, dice Olivia, conosceva già Jenny Oder, è stato leggendo del disco di Mischeta, Una vita in caps lock, ma lo diremo dopo. Soon. anch'io sbavo moltissimo sul cuscino. Ma adesso ci teniamo la canzone di Generic Animal, perché dopo questo pezzo inizierà un'altra traccia dell'album di debutto del 2015, Silently, Quietly, Going Away, Sonnet No. 4, ovvero un pezzo che poi è stato anche pubblicato in un EP alla fine di quell'anno con una copertina molto molto natalizia, questo pezzo e altre tre tracce. E ce lo teniamo per leggere appunto questa intervista di Rocket fatta da Noor Alabash in occasione dell'uscita di questo primo album, e dove Adele ci racconta appunto di come sia stata veramente una grande rivincita questo disco. E lei dice, insomma, in questo pezzo, questo disco è nato perché praticamente aveva dei pezzi sotto mano che erano stati scritti tra l'ultimo anno di liceo e il primo anno di università. Infatti qualche pezzo in forma diversa era stato anche, lo suonavano anche come Love Cats. Signs of my blues on my skin, like my. E quindi certi pezzi sono stati già pensati con una strumentazione un po' più ampia, perché anche quando suonava ancora con Cecilia Grandi aveva avuto l'idea di chiamare altri musicisti. Poi ha provato a suonare con alcune persone, non ha funzionato, e poi appunto ha deciso di creare questa nuova cosa, ovvero Any Other. E quindi racconta la genesi del nome, che abbiamo già detto, la scelta di parole che fossero, che piacessero sia graficamente che foneticamente. E dice: all'inizio non avevo ancora una chitarra elettrica, l'ho comprata lo scorso gennaio, quindi gennaio 2015. E poi dice: andavo da lei, da Erika, a provare i pezzi con batteria e chitarra acustica, senza l'ombra di un bassista. Poi appunto racconta l'incontro, reincontro con Marco Giudici. E poi c'è una domanda che è proprio relativa ai testi, e cita questa Sonnet No. 4, dice: l'unico pezzo che parla d'amore. E poi dice una cosa dei testi di cui sono particolarmente soddisfatta, è che sono diversi rispetto a tutto quello che ho fatto prima, appunto perché una volta la tematica dell'amore era quella che emergeva di più, invece questi testi li ho scritti proprio per me. Ho vissuto male il fatto di venire a vivere da sola qui a Milano per l'università, sia per una serie di motivi familiari, sia per altri che riguardano me, e aggiunge: perché fondamentalmente sono una malata di mente. Dice: ho iniziato a farmi domande su di me, cosa volessi fare nella vita, cosa stessi facendo a Milano, e anche il fatto di rimanere da sola dal punto di vista musicale. Insomma, la rottura del gruppo con Cecilia è avvenuta proprio nel momento in cui Adele capisce cosa voleva fare dal punto di vista musicale, e quindi ha dovuto insomma ricominciare un po' da zero. Praticamente tutti i pezzi parlano di prendere coscienza del fatto di non volere più stare male, di provare ad uscire da un brutto periodo, appunto in modo proprio sistematico, cioè decidere proprio di farlo. Where the hell have you been? But now you're here and I feel comfortable. E lei dice: ero senza un gruppo, senza casa, e c'erano queste cose negative che mi stavano buttando giù. E la cosa che più mi faceva incazzare era il fatto di non poter dedicarmi alle cose che amo, per il semplice fatto che ero presa male. E invece ho detto basta, questa cosa non può più andare avanti. E quindi insomma e lo ha scritto anche in un verso. Dice: I'm not interested anymore in feeling bad. E dice: quindi avevo una gran voglia di riscattarmi rispetto a questa situazione e anche rispetto ad altre persone. Eh sì, con altre persone, perché lei dice: poco prima di iniziare come Annie Oder ho avuto degli scontri con chi mi diceva che, appunto, come abbiamo detto prima, non sarei mai riuscita a fare questo disco, non sarei mai riuscita a trovarmi delle date, non sarei mai riuscita a capirne qualcosa di chitarre. E molto argutamente la giornalista dice: sento puzza di mansplaining. Che se non sapete cos'è, cercatelo. E lei dice: a voglia, ragazzi che mi dicevano: ah, ma tu non puoi suonare la chitarra in un certo modo perché sei una ragazza, oppure non puoi suonare questo tipo di musica perché sei una ragazza, stai tranquilla, continua a fare il tuo folk. Poi dice: come se poi fare folk fosse una cosa brutta. Ma fortunatamente lei va avanti e lungo la strada trova dei compari che la aiutano e la sostengono, ovvero Marco Giudici, che poi ha anche un suo progetto musicale che si chiama Alpha Lib. Stiamo infatti ascoltando un pezzo, Arythmie du Soleil, tratto dal suo album dell'anno scorso Malamocco, e questo pezzo è anche nella compilation dei showcase di South by Southwest, a cui quindi ha partecipato Marco aka Alpha Lib. Forse c'è stata un'influenza reciproca, insomma una crescita musicale reciproca tra Annie Oder e Alpha Lib. E mi pare di aver letto che sì, insomma, quasi come se Adele fosse un membro di Alpha Lib, come Marco lo è di Annie Oder. E poi sempre questa intervista, che il titolo è Fuck All the Losers. Lei dice: ho come la sensazione quando un uomo vuole qualcosa e non lo ottiene perché non ne ha la capacità o non si impegna abbastanza, e vede invece che una donna ci riesce, o perché ha talento o perché ce la mette tutta, probabilmente si sente frustrato, si sente come se quella donna stia portando via qualcosa di suo che gli appartiene di diritto, quando non è così. Cioè, nel mio caso ho avuto a che fare con musicisti che non sono mai riusciti a combinare un cazzo perché erano dei ragazzi presuntuosi, ignoranti, e vabbè, dice, io non è che penso di essere un genio o una gran figa, però vaffanculo, un bel disco, sono riuscita a farlo e sono anche riuscita a trovare delle date, e insomma ho ricevuto recensioni buone, persone prese bene con la mia musica, insomma, come dicevamo, parole sue, tutto ciò, un bel vaffanculo diretto a quelle persone. Rimanete lì a dire che sono una troia incapace che non sa suonare. Intanto io ho aperto il Parker Course al Bronson e voi state lì a non fare un cazzo e a dire: ah, le ragazze non possono suonare. Penso solo che sia invidia e frustrazione. E finisce questa Arythmie du Soleil di Alpha Lib. E torniamo a Two Geography con un pezzo dal titolo Perkins. Non abbiamo detto di come Adele sappia scrivere molto bene in inglese e abbia un'ottima pronuncia, e quindi ne fa, questa è la sua produzione Neoder, un ottimo, come si dice, prodotto di esportazione. E a questo proposito vorrei dire che proprio l'altro ieri sera, anzi il 4 sera, lei ha fatto un solo showcase in un negozio di dischi di Shoreditch a Londra, e poi il giorno dopo, ovvero l'altro ieri, c'è stata questa serata a Islington, ovvero il Siren Festival in London, e lei suonava anche, c'era anche un DJ set di Cosmo, c'era anche Young Signorino, cioè l'altro ieri Young Signorino era a Londra e ieri sera ce lo siamo visti al Freak Out. Invece di questo pezzo, Perkins, Adele dice, c'è quasi un ritornello, nel senso che comunque c'è una ripetizione melodica che può essere un ritornello. Il finale del pezzo è uno strumentale con le chitarre elettriche e il Wurlitzer, l'organo. È molto classico, un pezzo fatto in quartetto rock, però di fatto è un pezzo pop. La prima parte rimanda a Elliott Smith, appunto, e a quel mondo di pop che dal punto di vista armonico strizza rock e Beatles, e poi diventa indie anni 90. Appunto, senza leggere, che sto leggendo adesso per la prima volta, grazie Genius Lyrics che ha queste, che riporta, insomma, i contributors riportano questi pezzi di commenti di interviste tra Rockit e Radio Rahim, di commento di Adele sui propri pezzi, che vede appunto questo riferimento a indie anni 90, perché appunto sentendo questa coda io ho pensato ai Pavement, perché erano già in scaletta, ovviamente, perché erano tra le influenze dichiarate, ma anche se non lo dichiarava si sentiva lo stesso, e quindi ho deciso di metterli in scaletta adesso. Grandissima difficoltà a scegliere sempre pezzi di Pavement, perché sono tutti meravigliosi. E dopo Summer Babe, che a Might FM abbiamo messo ben due volte, e sono apparsi forse in cover, ieri abbiamo ascoltato tipo un best of, perché ce l'abbiamo tutti in vinile, quasi. E l'imbarazzo della scelta tra Two States, Here, Catch Your Hair, Stereo. e per appunto ragioni di ricordi sentimentali abbiamo scelto questo In the Mouth a Desert, del primo meraviglioso album Slanted and Enchanted del 92. Hai visto che Mighty FM è sempre molto molto autobiografica. Anch'io posso dire che questo disco e i dischi successivi dei Pavement hanno segnato veramente un grande periodo di cambiamento anche per me, il passaggio da Urbino a Bologna. È un ricordo specifico dei vinili nella libreria Billy con i ripiani imbarcati, dei vinili dei Pavement. Mouth a Desert, uno dei capolavori contenuti in Slanted and Enchanted, disco di debutto dei Pavement, che alla fine, perché uno non se ne rende conto, anche per altri gruppi, alla fine hanno fatto solo 5 album. Infatti ieri mi sono letta un bel articolo, intervista a Spiral Stairs, ovvero l'altra anima che ogni tanto qualche pezzo scritto da lui entrava nei dischi, tipo dei Tweet IKEA per esempio, che fa appunto il ranking dei 5 album dal peggiore al migliore. Ovviamente Slanted and Enchanted è il numero 1. E per finire il discorso appunto sulla considerazione delle donne musiciste, Adele dice: nel momento in cui ho iniziato ad interessarmi di femminismo e di questioni sociali, mi sono resa conto che c'era un mondo di ragazze che fanno musica di cui non mi rendevo neanche conto. Ora le cose stanno migliorando, ma fino a un paio d'anni fa le ragazze non uscivano così tanto fuori. Penso al mercato americano, musicisti come Waxahachie, Courtney Barnett, che comunque è australiana, e Speedy Ortiz ora sono artiste di punta, ma fino a qualche anno fa questo non succedeva. E poi racconta un aneddoto abbastanza allucinante, ma adesso appunto è iniziato un altro pezzo piuttosto breve, sempre di Two Geography, ovvero Mamma Oca, Mother Goose. I'm not in light, just boredom. I'm only willing for a pause. God damn, I woke up another day to go. I want her body's afterglow. Recover always needs it slow. God damn, I woke up another day is here. Well, I am tumbling in fear. I guess I have to learn to be alone without your being here. But goddamn, I woke up another day. I can't abandon this idea. Di questo pezzo Adele dice: è l'unico pezzo completamente acustico del disco. Quando l'ho scritto su un foglio, scrivendo l'armonia, le parole e la melodia nella mia testa, però non ho mai provato a suonarlo. Poi un giorno ho detto: ok, adesso registro il provino. E direttamente, insomma, la prima registrazione è diventato il pezzo che è finito sul disco. Thank you. E questo è un pezzo che parla appunto della, della mancanza della persona cara. Dice: maledizione, mi sveglio ancora un altro giorno senza di te per una settimana più o meno, mi manca il tuo calore al risveglio. Ma siamo arrivate, che questo è casuale, alle Waxahachie, che abbiamo appena citato, che lei aveva citato. Mi ricordo che per scegliere un pezzo per la trasmissione sul nostro Primavera Sound dell'anno scorso, e Waxahachie, ho fatto fatica a scegliere, anzi no, che dell'anno scorso, di quest'anno, ho fatto fatica a scegliere. Avevamo messo in trasmissione Silver, ma anche questa canzone mi piaceva moltissimo, quindi sono contenta di avere avuto la possibilità di metterla. Sì, tratta di Recite Remorse, tratto dall'album, ultimo album delle Waxahachie del 2017, ovvero Out in the Storm. For a moment I was not in love. Waiting for permission to take off. Una band di Birmingham, in Alabama. Birmingham famosa insomma per le rivolte per i diritti civili dei neri, in uno degli stati più razzisti degli Stati Uniti. È un progetto nato nel 2010 ad opera della cantautrice Katie Crutchfield, che prende il nome da un torrente, un corso d'acqua dell'Alabama, ovvero Waxahachie Creek. Quartetto che vede anche la presenza della sorella gemella di Kate, ovvero Allison, mi sembra la batteria e mi sembra che è lesbica, dichiarata. Eccola che entra la batteria, e insieme anche a Catherine Simonetti e Ashley Arnwine. Quattro album all'attivo, poi nel 2018 vedo c'è un 7 pollici e un EP. Bello, Recite Remorse. Ma facciamo un passo indietro. Abbiamo scelto, visto che appunto non c'è una copiosa discografia, avendo tempo, abbiamo scelto di suonare quattro pezzi dal debutto del 2015, Silently Quietly Going Away di Any Other. E questo ultimo pezzo, qui c'è anche un video, ma tutti i pezzi che abbiamo suonato c'è un video. Questa si chiama To The Kino Again, questo ritmo così scoppiettante alla Belle and Sebastian. È un pezzo scritto con Edoardo Derme, ovvero Calcutta. E soprattutto, come potete sentire, è il pezzo in cui si pronunciano le parole che hanno poi dato il verso, che ha poi dato titolo all'album, ovvero Silently, Quietly, Going Away. Me l'ero anche segnato, ma me l'ero dimenticato. Adesso mi sono dovuta tappare le orecchie per cantarmi in testa cos'è che mi ricordava questo passaggio, ovviamente a doppia velocità. Mi ricordava Clap Your Hands, Say Yeah, un pezzo più famoso, proprio in wow wow wow wow. Ma per finire con così, questa aneddoto dell'atteggiamento maschile nei confronti delle femmine che suonano, lei racconta che a lei e ad Erika, perché appunto un'intervista relativa al primo disco, quindi quello di cui stiamo ascoltando adesso un pezzo, lei dice c'era questo fonico che era il diavolo, era Satana. Facciamo il check-in, chiede chi canta, alzo la mano. E lui dice, ah ok, allora prendiamo un microfono adatto alle ragazze. Lì per lì ho pensato fosse un discorso di frequenze. Se non che durante il check-in, sì il check-in appunto, il soundcheck inizia a trattare me ed Erika come due deficienti, esonerando ovviamente Marco, che poi anche quello a cui facevano anche i complimenti, tanto è vero che appunto lei si è un po' arrabbiata, ha detto ok, allora per il secondo disco, questo Two Geography, scrivo tutto io, faccio tutto io, così i complimenti me li prendo io, giustamente. E dice, prima che suonassimo, si avvicina Erika e le dice, a te devo dare un consiglio, tu non guardare il rullante, perché tanto il rullante mica scappa. Poi si gira verso di me e mi dice, tu invece fatti vedere mentre suoni, guarda la gente negli occhi, le corde rimangono lì, le prendi lo stesso. E abbiamo cominciato a prenderlo per il culo dicendo, oh grazie, non lo sapevamo, dacci qualche altro consiglio, dai. E ricordiamo Any Other, domani sera 8 dicembre live al Covo Club, club più naturale dove poteva esibirsi una band come quella di Adele Nigro, che però fa anche molte date all'estero, dove lei si trova assolutamente a suo agio. Infatti dopo l'uscita del disco a metà settembre, prima è iniziato il tour europeo e adesso è iniziato quello italiano. Tipo proprio 3 giorni dopo l'uscita del disco, 7 date in Germania, tra cui Monaco, Berlino, Colonia, poi una in Svizzera, poi Rotterdam, Parigi, poi Brixton, Londra, Nottingham, Leicester, Manchester, Glasgow, poi di nuovo Hannover in Germania e poi dall'inizio di novembre, dal 9 novembre mi pare, in Italia, partendo dal Monk di Roma, e domani sarà qui a Bologna. Ma se qualcuno magari non la conosce come Adele Nigro, come Any Other, magari di riffa o di raffa la vista invece è la vista dal vivo, perché come dicevo di attività dal vivo, di giri ne ha fatti molto ultimamente. Una vita avventurosa è quello che sognavo. È un membro fondamentale dell'orchestra infedele di Colapesce. Donne con il burka che mi svelino. E infatti noi l'abbiamo vista tre volte già in live con Colapesce, dove lei suona la chitarra elettrica, l'unica chitarra elettrica della band, il sax e fa tutte le voci e i cori. Siete tutti felici, siete tutti risolti, ma un momento forse è nato Milano, aperitivo più negroni sbagliato. Sia per la trasmissione relativa al Siren che al Two Days abbiamo messo diversi pezzi tratti da Infedele, bellissimo disco di Lorenzo Orciullo in arte Colapesce, nel 2017, abbiamo messo Vasco da Gama, abbiamo messo Totale, abbiamo messo Ti Attraverso, e questo invece è un altro dei pezzi, insomma, più pop, però Maometto a Milano. Gocce di rugiada in bocca all'ombra di un banano, svenire fra le cosce delle mogli del sultano. Maometto forse è nato a Milano, aperitivo più negroni sbagliato, il qualunquismo che poi genera soldi. Siete tutti felici, siete tutti risolti, ma non metto forse nato Milano, aperitivo più negroni sbagliato, il quantismo che poi genera soldi. Siete tutti felici, siete tutti risolti, qui di sbagliato ci sono anch'io. E tornando appunto a quell'intervista di Dance Like Shaquille O'Neal, ci come Colapesce, e la giornalista chiede, intervistatrice chiede l'aneddoto più bello dell'Infedele Tour. Dice: forse non il più bello ma sicuramente simbolico, eravamo a Reggio Emilia a cena, prima di suonare arriva il cibo di tutti tranne che il mio, e io nell'attesa mi bevo praticamente una bottiglia di Lambrusco da sola, ormai ubriaca in paranoia, avremmo suonato dopo una quarantina di minuti, mangio 800 kg di pasta per combattere l'ubriachezza. Una band che vede anche le tastiere Mario Conte, il produttore del disco, anche insieme a Colapesce, produttore di Cristo, insomma anche di tanti altri nomi della musica italiana contemporanea. Criterion, how can you take on every aspect of the big oppression? E siamo arrivati a Capricorn No, ovvero il secondo video e singolo tratto da To Geography, è released qualche giorno dopo l'uscita del disco, il 20 settembre. In questo caso questa musica così delicata, leggera, in realtà fa da sfondo ad un testo abbastanza pesante e sempre molto molto personale. Thank you. survive in an abusive relationship. These are signs I should have noticed. Just don't fuck with me. Canzone che dice: come riesci a scappare da una relazione abusiva? Davvero pensi che puoi sopravvivere in una relazione abusiva? Ci sono segni che avrei dovuto notare. Just don't fuck with me again. E adesso spieghiamo anche, raccontiamo, leggiamo quello che ha detto Adele Nigro e lo facciamo tenendoci in sottofondo. Ultima botta a Parigi. Praticamente già morta. Di Mischeta, poiché non è che mi serva. Come dicevo prima, la prima volta che ho sentito il nome di Adele Nigro al sax era appunto tra i credits di Una vita in caps lock, fortunatissimo disco della Miss. E in questo pezzo, Ultima botta a Parigi, c'è la voce di Birth che potete sentire ora e il sax di Adele. Ultima botta a E tornando a Capricorn, no, quindi si vede che insomma è un segno da escludere nelle future relazioni interpersonali di Adele. Lei dice: questo è l'unico pezzo che per un attimo ho pensato di lasciare fuori dal disco, perché penso sia abbastanza unico dal punto di vista della scrittura della melodia, che è veramente pop, e mi chiedevo: non sarà fuori luogo? Alla fine ho detto: no, chi se ne frega. Uno dei motivi per il quale è stato scelto come singolo è proprio il fatto che è così unico. Ho finito la torta. Poi dice: ho scritto questo pezzo ormai un paio di anni fa, nel 2016. È un pezzo che nasce, è un collage di altri piccoli pezzi di cui ha tenuto l'armonia, di un pezzo, di un altro ha tenuto il testo e poi li ha assemblati insieme. E me ne vado via. E me ne vado via. E me ne vado. E poi la cosa importante a livello di testo è la frase che viene ripetuta un paio di volte, che è: you don't have to do the job for anybody else. La serie: bisogna cercare di aiutare se stessi da uscire da certi stati e quindi non si può fare questo lavoro per i problemi degli altri. Cioè, non è compito tuo far sentire gli altri bene a tutti i costi, anche a scapito del tuo proprio benessere. Poi dicevo, è stato tratto anche un video, il secondo video. È stato fatto un video su questo pezzo, Capricorno. Lei dice: il video è stato girato a Berlino dal mio amico Giulio Rasi, che lavora come documentarista per l'Università di Berlino in matematica. E infatti anche qualche scena è stata girata nel Dipartimento di Matematica dell'Università di Berlino. E siamo ritornate a Two Geography con un pezzo che è quasi appunto il pezzo che porta il titolo del disco, ovvero Geography, che è anche il pezzo preferito di Adele. Be no use loving higher, 'cause then your heart would just turn colder. See the dry leaves in the summer, just take a leaf out of my personal book. I'll try to teach you the care of a loner. You like to blame it on the circumstances, though it's destructive. structure you don't see. It's been my first time of all, dedicating all my eagerness. And even though my body full exploded, I won't regret a single thing. My mind can't resist when you're gone. Tornando a quell'intervista strutturata sull'alfabeto dalla A alla Z, non possiamo leggere tutte le domande e le risposte, comunque sotto G, appunto l'autrice dell'articolo propone Geography e chiede di raccontare di questo brano. Adele dice: è uno dei brani che amo di più del disco. All'inizio avevo un arrangiamento completamente diverso, super indie rock con la chitarra sempre presente, avevo un ritornello vero e proprio anche un pochino urlato. Poi scrivendo le batterie mi sono resa conto che il mood non tornava, allora in 10 minuti ho cancellato tutto e scritto quella parte che fa: my mind can't resist when you're gone. E dice: credo che sia uno dei pezzi più belli dell'album, lo amo veramente. E anche noi che non vediamo l'ora di vederla domani sera al Covo Club con di supporto Sleepy e i DJ set di No Glucose. E sebbene nessuna intervista, articolo che ho letto venga nominata, ho pensato fosse il caso di mettere anche in scaletta Snail Mail. Snail Mail, letteralmente posta lumaca, è il termine che nel parlato si usa, ma anche non nel parlato, per indicare la cara vecchia posta, non quella elettronica ma quella di carta. E Snail Mail è appunto una rappresentante di questa nuova ondata di guitar rock femminile, female guitar rock. È il progetto solista della chitarrista e cantautrice Lindsay Jordan, che ha iniziato nel 2015 partendo da Ellicott City nel Maryland e che ha adesso ha 19 anni ora. Pubblicato un EP nel 2016, Habit, e poi è stato questo debutto a giugno con l'album al titolo Lush. stiamo ascoltando uno dei pezzi principali del disco, Heat Wave, per un suono che prende ispirazione da Sonic Youth, Cat Power, Cranberries, Pavement, Velvet Underground, Paramore, Fiona Apple. Un debutto veramente molto molto apprezzato. Ovviamente c'è la band di accompagnamento, che sono altri tre giovanotti, basso, chitarra e batteria, ovviamente. E a questo proposito vorrei citare un articolo sul rinascimento del guitar rock grazie a cantautrici o band femminili, che è un articolo che vede interviste a diverse rappresentanti, le stesse sedi delle Speedy Ortiz, Snail Mail appunto, Vagabond, War on Women, Downtown Boys, Sheer Mag, Diet Sig, Soccer Mommy. Insomma, nel Nord America c'è tutta questa scena molto molto vivace, che riprende tantissimo appunto dall'indie rock anni 90, quello fatto con le chitarre. E quindi anche Any Other si potrebbe iscrivere in questa, insomma, tradizione, discendenza assolutamente. Era un articolo del New York Times dal titolo Rock's Not Dead, It's Ruled by Women, cioè il rock non è morto, è comandato dalle donne. Tornando, stavo aspettando di visualizzare il testo di Geography che abbiamo sentito prima. Dice: se tu riesci solo a vedere il mondo solo attraverso la lente del cinismo, che senso ha vivere? Non c'è neanche, non ha senso neanche provarci. È sempre rivolta a questo You, che evidentemente l'ha fatta stare abbastanza male. Come reazione Adele ha scritto un disco molto molto bello, che appunto sta portando in giro in Italia e domani arriverà a Bologna. Siamo arrivati al pezzo conclusivo di questo album, si chiama A Place, come il pezzo d'apertura si chiamava A Grade. Beh, queste prime note si chiamano Stairway to Heaven. Pezzo molto breve a chiusura di questo album. Honey, do you think it's right to leave your trace to stamp your form in a brand new matter, 'cause you know it fits you, but you don't want to acknowledge that. And what if matter is alive and temporary? It's got an aching pain right into the chest. Foreseeable blast, I wish you best. I hope everything is going well with your relocation concerns. Avevamo anche cercato delle recensioni, ovviamente le abbiamo lette, ma adesso non è capitato di trovare il tempo di leggere, anche perché abbiamo preferito farci raccontare i pezzi dalle stesse parole di Adele. Ovviamente recensioni molto positive su Dear Waves, Indie for Bunnies, Rocket, Sentire Ascoltare, Rock All. Credo che la band sia adesso in quartetto, veramente Marco Giudici e altri due musicisti, sono sicuro di averlo letto, ma adesso non posso riuscire a recuperare prima della fine di Two Geography. Ciao da Claudia Mighty Mouse.